distanza è stata ancora più forte della mia volontà. E l'innocente pagherà. Io so che non crederai, non mi crederai, ma è colpa sua, è colpa tua. Non mi interessa se tu delle false lacrime ora berrai. Ti posso dire sono salate, le ho già bevute oramai. Comunque tutto quello che dice lei non è verità. La sua dolcezza è stata ancora più forte della mia onestà. Ed ora le crederai, le crederai. Povero amico ingenuo, io lo so, le crederai. Hey!